respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro. Sono stati conferiti in questi giorni i premi Carte, cioè premi conferiti ad aziende, enti di ricerca, associazioni, istituzioni, artigiani e così via. Insomma, chiunque si sia distinto nel vasto mondo della carta. Il premio è promosso da Simbola, Fondazione per le Qualità Italiane, e da Comieco, che ben conosciamo, è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. Ed è questo premio istituito in collaborazione con Assocarta, Assografici e Confartigianato. Non ci attarderemo adesso nei dettagli, ma vale la pena di ricordare prima di partire che in Europa l'Italia è il quarto produttore e rappresenta rispetto al totale europeo il 10% della produzione. Non solo, come abbiamo già ricordato in altre puntate, l'Italia è oggi tra i primi quattro paesi in Europa per la raccolta e la lavorazione di carte da macero. Insomma, abbiamo una eccellenza che questi premi appunto sono andati a individuare. Nella categoria talento, il premio è andato a Lucense, un laboratorio per l'ideazione e la sperimentazione di usi innovativi del cartone. Per la categoria tradizione, il premio è andato a Grafiche Tassotti, che sono eredi della più antica stamperia d'Italia, ex aequo con il Centro Restauro Materiale Cartaceo di Lecce. E poi ci sono altre due categorie di premi che sono andati a un ente e a un'azienda particolarmente impegnati sotto il profilo ambientale, quindi ne parleremo più approfonditamente in questa puntata di Respiro. L'ente è il Comune di Ravenna, che è stato premiato per il progetto Per un futuro ecologico nella categoria territorio, e l'azienda è La Sales, inventrice di una particolare carta fotografica che è stata premiata per la categoria innovazione e tecnologia. Iniziamo da Ravenna, dove abbiamo raggiunto Luana Gasperini, responsabile dell'ufficio di educazione ambientale del Comune, la quale ci spiega in cosa consiste questo progetto che è stato premiato. È stato un progetto che è iniziato 5 anni fa, infatti questa è la 6ª edizione, e si è strutturato nel tempo lavorando insieme alle scuole. Insomma, noi abbiamo cercato di costruire un qualche cosa che prevedesse la collaborazione e la partecipazione di tutti, quindi non un progetto calato dall'alto, ma un progetto partecipativo nel vero senso. Il problema che ci si è posti è quello di non fare un progetto spot, ma di creare la possibilità nelle scuole di avere una pratica a cui poi non si poteva più rinunciare. In effetti nell'affrontare questo progetto ci siamo accorti che gestionalmente all'interno delle scuole era abbastanza difficile, perché poi bisognava far collaborare anche il personale non docente per rendere la raccolta differenziata veramente operativa. E nel corso degli anni questo ha consolidato proprio una prassi che le scuole non hanno più abbandonato. Ogni anno sempre qualche scuola in più. La scorsa edizione l'abbiamo dedicata tutta alla raccolta della carta, con una sorta di raccolta. Ah, perché è fatta a temi, diciamo, anno per anno? Diciamo gli anni scorsi prevedeva la raccolta di tutti i materiali, carta, plastica, vetro e le pile, ma quelle vengono fatte sempre. L'edizione dell'anno scorso l'abbiamo tematizzata sulla carta, pur continuando a fare anche altro tipo di raccolta differenziata, ma in particolare con ERA abbiamo cercato di fare una raccolta differenziata con una sorta di porta a porta, quindi un appuntamento mensile che per certe scuole è diventata bimensile, trimensile, perché ce n'era parecchia. Con ERA avevamo fatto un calendario, andavano la mattina, i bambini alla mattina consegnavano la loro carta, sia della scuola sia portandosela un po' da casa, quindi i genitori erano venuti completamente coinvolti. Io penso che il premio Carte abbia premiato proprio anche l'aver implementato un'azione che dà garanzie di risultato, non semplicemente un'iniziativa fine a se stessa. Insomma. Certo, l'obiettivo era educare i bambini e le loro famiglie, insomma, E le loro famiglie, e mettere in campo quella che si chiama una buona pratica, quindi proprio fare, agire, non semplicemente raccontare o dire che bisogna farlo, la raccolta, ecco. Vedo che avete appunto collaborato con ERA, in particolare anche con il circolo di Legambiente locale, esatto, quindi significa che c'è molto scambio tra le varie parti della società, insomma, a Ravenna c'è molto dialogo. Assolutamente, e a livello ambientale proprio è stata un po' la nostra filosofia, essendo il nostro anche un ufficio di educazione ambientale, proprio di fare una sorta di rete col territorio. ci sono le specialità del territorio sulle varie cose, quindi noi possiamo funzionare per agevolare loro, loro possono aiutare noi per mettere insieme in campo le cose, e si è creato un gran buon rapporto col territorio da questo punto di vista. Molte delle nostre iniziative sono fatte insieme ai vari rappresentanti o delle associazioni o degli enti, delle istituzioni o anche delle aziende. Mm-hmm. E in questo campo, questo progetto, proprio diciamo che il nostro è stato un vero e proprio partenariato attivo. Ognuno ha messo in campo quello che poteva mettere, però lavorando insieme, non ognuno per conto suo. Adesso ad esempio lunedì prossimo dovremo incontrare tutte le scuole, sono tantissime, quindi facciamo per cominciare a costruire quello di quest'anno. A questo le volevo chiedere, infatti una curiosità che avevo l'anno scorso era dedicato alla carta, in particolare quest'anno? Quest'anno a parte che rimarrà un po' questa impostazione della carta, in più cerchiamo di collaborare con un altro soggetto che si chiama Eco Recuperi, che opera qui in un paese del circostante Ravenna, per andare a fare anche una raccolta dei prodotti dei toner e in particolare novità dei vecchi cellulari. Con tanti complimenti a Ravenna per l'impegno ambientale dimostrato con questo progetto, ma anche con manifestazioni come Ravenna 2008, di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, promettiamo di andare a chiedere a Eco Recuperi che cosa ci faranno coi vecchi cellulari raccolti tra gli studenti ravennati. Andiamo adesso però al premio Carte per l'innovazione e la tecnologia. Come dicevamo, è andata a Sales, un'azienda che ha brevettato Runblock Photo, una carta fotografica particolare. In apparenza si tratta di un foglio di quadernone con i buchi, ed è infatti molto facile alla fine comporre un album fotografico con questi fogli con i buchi, però non è del tutto tradizionale, perché la carta sulla quale si stampano le fotografie è rinforzata in modo da consentire stampe di foto digitali con normali stampanti inkjet senza sbavature, ed è una carta prodotta con particolare attenzione all'ambiente. Ce ne parla il presidente della Sales, Emilio Tessera Chiesa. La nostra società ha una certificazione di qualità ed ha anche una società di certificazione ambientale che è stata rilasciata dal prestigioso Istituto Svizzero SQS, che direi in Italia è uno dei più severi che ci sono. E quindi noi tutti i prodotti che facciamo, compreso questo, sono in certificazione ambientale, che offre una grande tutela anche al consumatore. Le carte sono prodotte tutte da pura cellulosa, sono carte che non contengono nessun tipo di inquinante. Tenga presente che queste carte, questi prodotti qui vengono utilizzati soprattutto per uso scolastico, quindi i bambini delle elementari utilizzano moltissimo questi fogli rinforzati per i loro disegni, poi man mano durante tutto il percorso scolastico fino all'università, dove vengono. Quindi a maggior ragione era importante che fosse un prodotto non pericoloso, non tossico, ecco. Esatto, cioè è stata data una grandissima importanza. Le dirò che su Runblock Photo i materiali di rinforzo che sono stati utilizzati, pur essendo il settore fotografico completamente differente, per tipologia da quello alimentare, utilizzano invece materiali di rinforzo che sono con certificazione alimentare. Quindi c'è una garanzia assoluta sotto il profilo anche del rispetto non solo dell'ambiente, ma anche della tranquillità e della sicurezza della persona che utilizza questo. Senta, questo per voi comporta anche un maggior sforzo economico? Cioè costa di più produrre in questo modo? Guardi, noi cerchiamo di fare prodotti innovativi, questa è proprio la caratteristica della nostra azienda da moltissimi anni. Noi abbiamo moltissimi brevetti sia in Europa che all'estero per prodotti innovativi, questo è l'ultimo. Il nostro sforzo è quello di fare prodotti che siano ovviamente compatibili a livello economico con i prodotti che ci sono sul mercato, pur offrendo qualche cosa di più rispetto agli altri. E quindi non crediamo che questo prodotto qua che sta uscendo adesso sul mercato, non desideriamo che abbia delle quotazioni che si discostino da quelle che ci sono già sul mercato per prodotti simili, pur non avendo tutte queste caratteristiche di comodità per l'archiviazione che ha questo prodotto qua. Quindi si riduce, diciamo, il vostro guadagno, però non aumenta troppo il prezzo? Riduce i margini operativi, però poi sulle grosse quantità diciamo che si riesce poi sempre a fare un prodotto che permetta all'azienda di sopravvivere e quindi di fare gli investimenti che sono necessari per aggiornare sempre i propri macchinari a quelle che sono le migliori tecnologie presenti sul mercato. Prima di chiudere parliamo anche di un'altra manifestazione che si è tenuta in questi giorni, ovvero il Forum Internazionale degli Acquisti Verdi a Cremona. Cosa sono gli acquisti verdi? Sono acquisti fatti dalla pubblica amministrazione rispettando criteri ecologici. Secondo l'Unione Europea, entro il 2012 il 50% degli acquisti pubblici dovrà essere ecologico. L'Italia è lontana dall'obiettivo, ma almeno dall'aprile scorso ha un piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement, in italiano acquisti verdi della pubblica amministrazione, e non solo, adesso ha anche una fiera di riferimento, quella appunto di Cremona. Silvano Falocco di Ecosistemi è tra gli organizzatori della fiera e ci fa capire almeno di che cosa stiamo parlando. Gli acquisti essenziali sono semplici, sono ad esempio l'acquisto di tutti i prodotti elettrici ed elettronici, l'acquisto della carta e quindi dei prodotti di cancelleria, l'acquisto dei mezzi di trasporto, l'edilizia, che è uno dei settori chiave, l'alimentazione, ovvero nelle mense, nelle macchine che distribuiscono cibi e bevande, occorre tener conto ad esempio delle filiere corte. Questa platea di acquisti ammonta oggi a 130 miliardi di euro l'anno, quindi convertire il 30% significa mobilitare 40 miliardi di euro l'anno, con notevoli effetti sull'economia. E che effetti avrebbe se tutti facessero quello che è stato richiesto sull'ambiente? Ecco, sull'ambiente diciamo gli effetti sono in tre ambiti. Il primo è quello della riduzione dei consumi di energia. Il secondo è, ed è collegato a questo, è ridurre le emissioni di CO2. Il terzo invece è ridurre l'uso delle risorse naturali, ovvero consumare meno materie, utilizzando meglio le possibilità date dal recupero, dal riciclo, dal riutilizzo. Ed è tutto per questa puntata di Respiro, grazie per averci seguito. La linea passa adesso al riposo del guerriero con Stefano Gallarini. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora. Vi ricordo per scriverci respiro@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.